America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Tens of millions of people affected by the massive storm as it slams into the major metropolitan areas of the Mid-Atlantic and Northeast. La tempesta di neve è finita. Oggi avremo una giornata di sole qui a New York, ma questa tempesta, devo dire, è stata piuttosto devastante per altri stati americani. A New York alla fine ce la siamo cavata con qualche cosa di meglio di quel che potevamo aspettarci. Altri stati hanno avuto problemi ben maggiori. Complessivamente 8.700 voli sono stati cancellati, migliaia di scuole chiuse, strade, autostrade bloccate. Però l'impatto di questa tempesta, per fortuna, non ha creato danni enormi o comunque conseguenze tragiche dal punto di vista delle vite umane. Per ora si contano 3 morti e alcuni feriti gravi. Di fatto, però, l'intero Nord-Est è rimasto bloccato, anche New York è rimasta bloccata. Persino le Nazioni Unite erano chiuse, le Nazioni Unite riaprono oggi per la conferenza annuale sullo status delle donne. Devo dire, una delle conferenze più importanti, uno degli appuntamenti annuali più importanti. Io spesso cerco qui dai microfoni di Radio 24 di parlare dei diritti delle donne, di cercare di promulgarli, e dunque non potevamo trascurare un evento di questo genere che capita qui a New York, migliaia di donne riunite a discutere dei loro problemi in tutto il mondo, perché se l'emancipazione femminile la possiamo testimoniare in gran parte dei paesi che fanno parte dell'ONU, beh, ce ne sono altri dove la condizione femminile resta invece drammatica. Ma quest'anno a queste riunioni si è deciso di dare spazio, di aggiungere un tema importante, quello della lotta al terrorismo. Come le donne possono partecipare a questa lotta? E devo dire che l'ispirazione è anche venuta da una donna che si chiama Dija Arfawi, una tunisina che fa parte dell'Associazione per le Donne Democratiche Tunisine, che fa parte dell'International Civil Society Action Network. Una donna che ha combattuto in prima linea in Tunisia sia durante il movimento delle primavere arabe, il partito da lì lo ricorderete, ma anche per l'emancipazione delle donne nel mondo islamico. Ebbene, all'improvviso, inaspettatamente, è stata colpita a distanza dal terrorismo. Il figlio Dalia Zabi e la moglie del figlio Senda erano andate a Istanbul per la fine dell'anno, alla fine del 2016, e sono andati a celebrare al Reina Club e purtroppo sono rimasti uccisi dall'orrendo attacco terroristico che ha poi ucciso 39 persone. Dalia aveva 42 anni, aveva un'azienda, aveva una trentina di dipendenti nel settore della comunicazione digitale. Senda, la moglie, ne aveva 32, avevano anche una figlia di 5 mesi. Bene, la madre, Adija Arfawi, che era rimasta a Tunisi a occuparsi della figlioletta, è con me qui ai microfoni di America 24. Buongiorno Adija. Buongiorno Mario. Adija, lei è qui per partecipare alla riunione delle Nazioni Unite, in particolare per occuparsi della lotta al terrorismo. Può raccontarci qual è la sua missione qui? Crediamo che le donne non abbiano un ruolo abbastanza importante nella lotta contro la piaga del terrorismo e vogliamo avere più spazio. Le donne sono l'esempio per eccellenza della non violenza, un atteggiamento che conservano anche quando appartengono a gruppi differenti e opposti. Prenda le donne palestinesi ed israeliane, marciano unite, unite in nome della pace. Siamo contro il terrorismo e contro la violenza. Finché la discriminazione verso le donne continuerà ad esistere, non potremo mai fare passi avanti. E questa discriminazione oggi si può ancora vedere ovunque. I musulmani più radicali continuano ad imporre il velo alle donne, ma io appartengo ad una società che si oppone al velo. Crediamo che non abbia alcun senso. Ecco, come può l'emancipazione della donna tradursi in un'arma contro il terrorismo? Come lo farete qui all'ONU? Women will not accept violence. Noi donne non accettiamo la violenza. Questa violenza terroristica colpisce all'improvviso, nessuno è sicuro, non puoi proteggerti. Uccide le persone, uccide i nostri uomini, i nostri mariti, i nostri figli, i nostri fratelli. Per questo dobbiamo reagire. Noi vogliamo riuscire a proteggere i membri delle nostre famiglie dall'odio e dalla morte. Violence and from death. E lei è stata purtroppo direttamente colpita dal terrorismo. Exactly. I was Esatto, mentre combattevo contro il terrorismo, non avrei mai pensato che un giorno ne sarei stata colpita io stessa e nel modo più terribile. Mio figlio e sua moglie erano in salute, gentili e simpatici, si amavano e avevano una bellissima bambina di 5 mesi. Erano andati ad Istanbul solo per 4 giorni, anche se li avevo avvertiti di non andare perché era pericoloso. Loro mi hanno risposto che il rischio c'è ovunque, è vero, e non mi sarei mai aspettata che sarebbero stati davvero in pericolo di vita. Ecco, erano dunque al Reina, al nightclub Reina, quell'orrenda notte, e purtroppo sono stati uccisi anche loro, parte di quelle 39 vittime del terrorismo. Ecco, che ricordo ha di quella sera? They were having a great time. Istanbul è una città bellissima e si stavano divertendo molto. Chi se lo sarebbe potuto mai aspettare? Avevo parlato con loro solo poche ore prima. C'è la loro immagine presa da un canale TV in cui salutano e augurano il buon anno. Li aspettavamo il giorno dopo. Avevamo anche già preparato il pranzo per il primo dell'anno, poi tutto questo. So che mio figlio è morto sul colpo, colpito alla testa da 2 proiettili. Mia nuora poteva scappare, strisciando dal terrazzo, ma l'ho visto cadere ed è subito tornata indietro per aiutarlo. E così anche lei è stata colpita. Le sue ferite non erano letali, ma è morta dissanguata. I soccorsi infatti sono arrivati solamente dopo 1 ora e mezza. Help came after 1 hour and a half. Tutto questo per me è stato come un terremoto, così inaspettato, così orribile. Poi realizzi che tutto è vero, che sono morti. Morti, morti per davvero, torneranno in una bara. Mio figlio maggiore era in Grecia e è andato lui ad Istanbul a riconoscere i corpi e a riportarli a casa. Hanno avuto funerali di Stato, Mario. Funerali di Stato. C'erano il presidente, il primo ministro, il governo, tutti i politici di tutti i partiti, le ONG, c'erano davvero tutti. E tutti sono rimasti sconvolti. Continuo a ricevere messaggi di persone che non conosco e che mi dicono: non ti abbiamo mai incontrata, ma siamo scioccati e addolorati. Mio figlio mi mancherà per sempre, per sempre. I keep receiving messages from people I don't know. They tell me from Tunisia and from the whole world, telling me we don't know you, but we are so shocked, you know. And I am still in a state of shock, you know. I will miss my children forever, forever, forever. Ecco, grazie Adija, credo grazie da tutti i nostri ascoltatori. Il suo è stato un racconto davvero emozionante e lei tra l'altro ha la forza di continuare ad andare avanti e di continuare a combattere adesso contro il terrorismo. Ecco, con che messaggio vuole lasciarci dalle Nazioni Unite, da questo ombrello che raccoglie l'umanità? We must fight violence and we must take care of our children. Dobbiamo combattere la violenza, ma soprattutto dobbiamo prenderci cura dei nostri bambini, dei nostri giovani. Le madri ricoprono un ruolo importante, ma anche i padri. Non possono lasciare solo alle donne la responsabilità di educare i figli. Dobbiamo tenerli al sicuro da tutta questa violenza, perché ovunque ci sono persone che tentano di reclutarli. Ovunque. Dobbiamo invece spingerli verso la letteratura, lo sport, l'arte e l'istruzione in generale. Dobbiamo combattere la povertà e la disoccupazione, ma soprattutto dobbiamo ascoltare i nostri bambini. Troppo spesso, infatti, non troviamo il tempo per farlo, ma dobbiamo farlo. Bisogna sempre trovare un momento per ascoltare i propri figli. And we have to listen to our children. There are parents who don't find the time to listen to their children. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me Hadija. Hadija Arfawi ci ha raccontato una storia terribile, ci ha dato grandi, grandi emozioni, devo dire, in questa trasmissione. Hadija, we are about to play a song of the day. It's your choice. Well, I think of a very moving song. I have always been fond of. Of course, I have always been fond of the Beatles. Imagine all the people from John Lennon. Imagine a world where all people live in peace, where there is no hatred, where there is no violence, where there are no wars. This is the world that we want to fight for. Imagine di John Lennon, direi la canzone più appropriata, una scelta straordinaria di questa donna che continua a vivere nonostante la tragedia, che continua a immaginare e ad avere la speranza per un mondo migliore. John Lennon. Try. sky. Imagine all the people living for today. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.